ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi. Last night I slept, oh so lightly, kept hearing the strangest things. Now I'm a mama. 3 anni fa mi è venuta la febbre e non è più andata via. 11 gennaio 2016, 31 anni non ancora compiuti. Torno dall'università, è ora di pranzo ma non ho fame. Cos'hai? Non mi sento tanto bene, forse mi sta venendo la febbre. Mi metto sul divano, non riesco a leggere. La febbre mi viene, non va più via. Una settimana, 2 settimane, un mese. 38, 38 e mezzo, poi si abbassa ma si blocca lì. 37,4, 37,3, non smette, non passa. La colonnina di mercurio incantata. L'abbasso, risale. Ogni volta che tolgo il termometro da sotto l'ascella spero che scenda, ma non lo fa. Sempre un po' oltre il 37, il confine, lo spartiacque tra quello che ero e quello che sono. Torno dall'università e misuro la febbre, la misuro ancora, sempre, di nuovo. Mia madre mi chiama, inizia a chiamarmi ogni 3 ore. Allora? Hai ancora la febbre? Sì, mamma, c'è ancora. Ma come mai? Dopo misurala un'altra volta e poi ancora, non smettere mai di misurarla. Ogni 2 ore mi chiede a quanto ce l'ho. La tachipirina non mi fa niente, scende ma poi torna su. 3 giorni, 5, 10. Vado a fare lezione anche se non me la sento, insegno yoga in palestra da 4 anni, o sono 5. All'inizio mi piaceva, ora non più. Sono stato costretto a insegnare troppo, ovunque, a qualunque orario, palestre, scuole di danza, catene di fitness, qualità varia, il più delle volte scadente. Mi sono mantenuto così durante l'università. Ho accettato qualsiasi chiamata, proposta, sostituzione, anche controvoglia. Se non vado non mi pagano, devo andarci anche con la febbre. Non ho un contratto, sono freelance. Niente malattia, niente permessi. Domani ho lezione al mattino presto, devo uscire di casa alle 7. Pensavo sarei stato un po' meglio. Ormai è tardi per avvisare. Il responsabile dei corsi è uno nuovo, sta lasciando a casa un sacco di gente. Si fa bello con la direzione, convoca, minaccia, riduce le ore. Tanto ormai a Milano ci sono più insegnanti che gente che pratica. Quello dei teacher training è un business. Ci mette un secondo se vuole a sostituirti. Di notte sudo, tantissimo. Il letto quando mi sveglio è impregnato di tutto questo sudore liberato nel sonno. Una macchia nera sul lenzuolo blu delle mie dimensioni. Una macchia nera formato me. Anche il cuscino è tutto sudato. Ne bagno un lato, lo giro e bagno anche l'altro. Mi alzo e mi cambio, anche 3 magliette prima dell'alba. D'ora in poi sarà sempre così. Di notte il mio corpo collassa in un bagno d'acqua. Si arrende alla temperatura impazzita che sale, scende, fa quello che vuole. Mi sveglio, faccio la doccia, mi riaddormento sul divano senza volerlo. Sudo di nuovo, mi sveglio, esco alle 7 in ritardo, tutto bagnato. E ora, scendo in strada. Gennaio, Milano, ci saranno 2 gradi. L'aria ghiacciata mi entra da sotto il cappotto, mi gela il sudore. Vorrei fermarmi, tornare su, a casa. Mi copro di più, metto il cappuccio, proteggo la testa, cammino piano, avvolto nel cappotto e nel mio sudore gelato, un passo dopo l'altro. Accelero e poi rallento di nuovo. Devo capire cos'ho. Strada, incrocio, poi metro, mi devo sedere. Mi fermo, non ce la faccio. Allungo l'ispirazione, riempio la gabbia toracica. Ce la devi fare. Arrivo in palestra, mi cambio, salgo in sala. Mi stanno aspettando, sono in ritardo di un quarto d'ora abbondante. La lezione dura 50 minuti. Saranno già andati a lamentarsi in reception. Mi scuso, lo dico, lo ammetto, sto poco bene. Pensavamo che non arrivassi più. Sorrido, che cazzo volete? Le signore che vengono alla mia lezione sono abituate a vedermi passare con disinvoltura da una posizione all'altra, flessibile, forte, un mezzo atleta. E ora che ha? Che gli succede? Mi scuso, poi smetterò anche di fare questo. Non mi scuso più. Faccio come se nulla fosse. Tanto a che serve? Al quarto giorno di febbre mia madre inizia a uscire di testa. Una ragazza ha iniziato così, mi dice al telefono. Qualche linetta di febbre. È morta dopo una settimana. Meningite fulminante. Vai dal dottore. Che stai aspettando? Che sia troppo tardi? Mi chiama in continuazione. Se non telefona mi scrive messaggi. Se non rispondo subito ne invia un altro. E poi ancora, di nuovo, decine e decine. La sua paura si propaga attraverso il campo elettromagnetico del cellulare. Diventa la mia. Come è sempre stato. Vai da un dottore, fatti vedere. Io non ce l'ho neanche il dottore. Avevo quello provvisorio fino all'anno scorso. Uno di quelli che ti danno se sei studente o hai la residenza in un posto diverso da quello in cui vivi. Dopo un anno scade, va rinnovato. Io non l'ho fatto. Ma mia madre ha ragione, devo fare qualcosa. Provo a scrivere a un medico nuovo che mi ha consigliato Gianfranco, un mio amico. È giovane, credo sia gay. Si fa pubblicità su Facebook e su Instagram. È fissato con la storia dell'arte, posta più quadri che altro. Studia medicina cinese, agopuntura. Consiglia ricette vegane. Gli scrivo su Messenger. Ciao, posso disturbarti un attimo? Certo, con piacere. Io sono senza medico generico, sono dell'Interland ma vivo a Milano da un po' di anni, però non ho ancora spostato la residenza. Un mio amico mi ha consigliato di provare a sentirti almeno per un parere. Vai, dimmi pure. Da un po' di giorni ho la febbre, si alza e si abbassa ma non ho altri sintomi. Tosse, mal di gola? No, tutto ok. Urini normalmente? Vai di corpo? Sì. Domani mattina riesci a fare un salto qui? Ti visito anche se non sei mio paziente. Va bene. Al massimo puoi farti inserire dopo alla ASL. Sarò in studio dalle 10 alle 12.30. Vieni e mi racconti. Così poi vai a casa tranquillo. Io e la mamma siamo da soli quando vengono a spaventarci. Ho un anno e mezzo. Da pochi mesi viviamo nel bilocale in via Giacinti numero 10. Siamo da soli in casa. Papà è al lavoro. Verso le 4 del mattino la mamma si sveglia. Rumori, qualcosa che sbatte. Sta piovendo già dalla sera prima. La mamma pensa, sarà la pioggia o qualche ramo mosso dal vento. Ma no, non è la pioggia, non è neanche il vento. La mamma si alza, va in cucina, il rumore arriva da lì. Io resto a dormire nella culla di fianco al letto dei miei. Non ti sei accorto di niente. Le api sospese sulla faccia e i pupazzi dove devono stare. Non ti sei accorto. Coprire, minimizzare. Una vita normale la nostra, la tua. La tapparella della cucina tutta abbassata. Papà ogni volta prima di uscire mette i fermi per sicurezza. La mamma non accende la luce, non serve. Il lampione che abbiamo davanti alla casa che ci ha assegnato il comune qualche mese fa, secondo piano di 8, la porta sulla destra del pianerottolo, illumina la facciata del nostro palazzo. Illumina il balcone della cucina. La luce del lampione di via Giacinti fa vedere benissimo alla mamma le mani che da sotto la tapparella stanno cercando di alzarla. La spingono verso l'alto, ma più lo fanno e più i fermi inchiodano la tapparella al suo posto. La mamma si sente le gambe crollare. Dio ti prego, fa che i ganci reggano. Dammi il tempo di chiamare qualcuno. Mia madre sulla soglia della cucina davanti alla tapparella che sta per cedere. Le mani insistono, non lasciano perdere. Hanno un compito da portare a termine. Spingono con foga verso l'alto la tapparella che ci deve proteggere. Mani di uomo, pelose. Le mani dell'uomo che sta cercando di entrare in casa nostra. Unghie bordate di nero, dita indurite dai muscoli che ce la mettono tutta. Un orco, un criminale, uno stupratore. La mamma preme l'interruttore di fianco allo stipite della porta. La luce riempie la cucina, ma l'uomo non se ne va. Non ha paura di essere visto. Se non è un ladro, cosa vuole da noi? Uno dei fermi non ce la fa più e salta via, parte e va a sbattere contro il vetro della porta finestra. L'uomo sembra incoraggiato dal rumore del vetro che quasi si spacca. Niente più freni, scuote la tapparella ancora più forte. Mamma, aiuto, cosa facciamo? La mamma capisce che l'uomo non se ne andrà, pronto a tutto, niente da perdere. Si gira, si allunga veloce verso il telefono che abbiamo in corridoio, chiama il nonno, Pierre, il padre di papà che abita vicino a noi. Mamma, perché non esci? Perché non vai per le scale? Perché non chiedi aiuto ai vicini? La mamma ha paura che ci sia qualcuno anche sulle scale. Ha paura che l'uomo del balcone non sia venuto da solo. Quanti sono? Una banda, un esercito? senza speranze, io e lei, una ragazza di 19 anni e un bambino di un anno e mezzo, in trappola nella piccola casa che il comune ci ha dato, come fa con i grandi, come fa con gli adulti. Cosa abbiamo fatto di male? Perché siete venuti a svegliarci? Perché siete venuti a prenderci? La mamma schiaccia veloce i tasti del telefono, fa il numero dei nonni, lo sa a memoria. Signor Pierluigi? Signor Pierluigi, mi sente? Sono Latina. Signor Pierluigi, venga, stanno cercando di entrarmi in casa. La nonna Nuccia telefona a papà, il nonno si infila le scarpe e scende. Attraversa i box per fare prima taglia tra i cortili delle poche vie che ci separano. Via delle Azalee, via Begonie, via dei Narcisi, via Rododendri. Il nonno corre, viene da noi, ci viene a salvare? Mentre il nonno sta arrivando, l'uomo sul balcone molla il colpo, scappa. Ha sentito la telefonata che ha fatto la mamma. Arriva il nonno, poi arriva anche papà. Mio padre, 22 anni, sa tutto. Va diretto da Carmelo al pian terreno. Fa pure i tuoi porci comodi, ma non rompere i coglioni alla mia famiglia. Papà è sicurissimo. Dice alla mamma che non volevano entrare davvero in casa nostra. Ci volevano solo spaventare. Ci volevano far capire chi è che comanda in via Giacinti. Lui qua dà fastidio, nella nostra via spacciano, girano armi e Carmelo è il capo, gestisce lui la zona. In cantina hanno buttato giù tutti i muri per usarla come deposito della merce rubata. La nostra cantina non esiste più. La nostra, come quella di molti altri condomini, praticamente di tutti, è diventata il magazzino dei balordi di Rozzano. Nel palazzo si lamentano, ma non fanno niente. Mettiti tu contro sta gente. Un giorno o l'altro vado dai carabinieri. Ci si ripete in continuazione a vicenda. Ci si lamenta per le cantine, per tutto il resto, ma le cose possono cambiare solo quando la gente muore. Cambiare, ma non in meglio. Si stabilisce semplicemente un altro ordine, un'altra gerarchia. Arriva qualcuno di nuovo a comandare. Piovigina ancora, quando il nonno e papà arrivano, tirano su la tapparella della cucina e trovano le impronte dell'uomo. Il balcone è senza piastrelle. Papà, sul cemento, in attesa di avere i soldi per sistemarlo, ha messo un telo di plastica. Sulla plastica sono rimaste le impronte delle scarpe dell'uomo. Così come è venuto una volta può benissimo tornare. La mamma lo sa, lo dice a mio padre. Roberto, io non ci sto più qua da sola, ma che casa ci hanno dato? Tina, sta tranquilla, ci penso io. Non succede niente, te lo prometto. Come stai? Come stai? Moscio, fiacco, come quando hai l'influenza. A chiunque me lo chieda ripropongo i soliti tre o quattro aggettivi, imprecisi, vaghi, impotenti. Basta, ho deciso, vado dal medico. Prendo la metro, direzione Sesto, raggiungo il mio nuovo dottore nel suo studio tra Viale Monza e Via Padova. Aspetto sulla sedia anni 70 grigio infeltrito, sta visitando una ragazza africana che non parla bene l'italiano, ha un problema ginecologico, le sta prenotando lui una visita dallo specialista. Capisci quello che dico? C'è posto per domani, va bene? Sai come ci si arriva? La ragazza raccoglie le sue cose ed esce. Avanti, chi è il prossimo? Come entro nella stanza il mio nuovo dottore mi dice che non sono idratato. Mi fa sedere sul lettino, mi guarda gli occhi, la pelle. Vedi che labbra secche che hai? Bevi abbastanza? Zenzero, curcuma, fatti delle tisane. Ho la febbre da una settimana, nessun altro sintomo. Niente raffreddore e niente mal di gola. Il corpo deve guarire da solo, mi dice. Non ti do l'antibiotico. Mi dà degli integratori, un multivitaminico, l'echinacea, i probiotici per l'intestino. Vado a comprarli in farmacia. Con questi sicuro andrà meglio. Quando torno a casa li fotografo pure. Fermo in una foto l'immagine di questi 4-5 flaconcini davanti alla finestra della cucina, in fila uno dopo l'altro, circondati da una luce bianchissima e di buon auspicio. Metto un filtro per aumentare l'effetto. Una terapia naturale mi guarirà. Falso. Non cambia niente. La febbre rimane. 37,3, 37,4. Non esplode ma neanche si spegne. Resta lì dalla mattina alla sera. Misuro la febbre. Hai misurato la febbre? Letto, divano, poi ancora letto. Mia madre che chiama. Non glielo voglio dire che la febbre non sia ancora abbassata, che è sempre qua, tale quale a prima. Non è un'influenza, ormai devo ammetterlo. Non è un'influenza normale. Inizio a cercare su internet i sintomi, le cause. Che malattia mi è venuta? Esco di casa solo il minimo indispensabile. Mi trascino in palestra a fare lezione e al supermercato quando proprio non posso farne a meno. Il resto del tempo sto sul divano e cerco ipotesi online. Devo capire, devo sapere cosa mi sta succedendo. Febbricola. Si chiama così. Imparo che ha un nome speciale, la febbre bassa e persistente. Cerco su Google, febbre che non passa, febbre bassa costante, in continuazione leggo dai siti, dai forum, dai consulti online coi dottori, febbricola, febbriciattola, febbre a 37 da 2 settimane. Ci sono persone a cui viene questa febbre che non va più via, è una specie di sindrome. Leggo le testimonianze di quelli che l'hanno avuta o ne soffrono ancora. Febbre di origine sconosciuta, fever of unknown origin, FUO. Ci sono casi anche molto più gravi, gente a cui dopo è venuto di tutto. Ho paura. Inizio ad avere paura davvero. Un ascesso nascosto, un'infezione, la tiroide, un tumore. 11 gennaio 2016. Torno dall'università e mi viene la febbre. Sono tornato a piedi, anche se già in aula non mi sentivo bene. L'università è a 10 minuti da casa, non ho preso la metro, me ne sono pentito. È ora di pranzo, dovrei mangiare, ma non ho fame. Al corso di filosofia politica che ho appena iniziato a seguire, la professoressa ha raccontato dello scontro tra i Meli e gli Ateniesi per illustrare la tesi secondo cui le considerazioni rilevanti in politica sono solo quelle basate sui rapporti di forza. Provo a riguardare gli appunti, ma mi bruciano gli occhi. Non riesco. Ho la febbre. Non passerà più. Smetto di andare all'università. Non ci vado il giorno dopo. Non seguo più il corso. Non vado il giorno dopo e non ci andrò più. Non mi laureerò più. Lunedì 11 gennaio. L'8 era il compleanno di Marius, il mio ragazzo. Viviamo insieme da quasi 3 anni. Io, lui, Mirtilla e pure i 2 Devon Rex che ho preso insieme a Marco, il mio ex. Io li avrei chiamati Rosa Spina e Leon, il mio ex, poverina, e purtroppo abbiamo trovato un compromesso. Sabato sera, per festeggiare il compleanno di Marius, siamo andati a ballare con dei suoi amici. Anzi, prima a bere in un paio di posti qua in zona e poi in discoteca. Non stavo male, forse un po' fiacco. Niente di che, mi è già capitato. Al locale un suo amico, nei bagni, dopo avermi guardato, mi ha detto ridendo: «Non hai un'aria sana, sembri sieropositivo». «Lo sembri più tu», gli ho risposto io. «I sieropositivi che conosco io sono più simili a te, ovvero troie. I sieropositivi che conosco io sono troie, come te». «È che io ho sempre avuto un'aria sbattuta, sin da piccolo mi sento dire che sembro malato». «Hai le occhiaie, come sei pallido, prendi un po' di sole, ma mangi?» Del compleanno di Mario so anche un video. In uno dei pub in cui siamo stati prima di andare a ballare, mi sono ripreso mentre infilo in bocca della pellicola di plastica trasparente appallottolata. Ero ubriaco. Ho caricato su Instagram la sequenza al contrario, in rewind. Sembra che la mia bocca risucchi un grosso fiore di vetro accartocciato. La massa lucida, da gonfia diventa stretta, mi dilata a dismisura le labbra, entra tutta, scompare, gli occhi spalancati, la pelle arrossata, il flash del telefonino sparato in faccia. Passano altri 2 giorni. Torno dal mio nuovo dottore. Non c'è nessuno. Ha appena aperto lo studio, pochi pazienti. Approfitto della sua disponibilità, del suo bisogno di piacere alla gente. Entro, mi siedo. «Allora come va?» «Ho ancora la febbre, bassa, ma c'è». Lui minimizza, pensa che mi trascuri. Un'influenza è la stagione. «Stai prendendo gli integratori? Magari è mononucleosi, solitamente da febbricolo e sudorazione notturna, e tu le hai entrambe. Bisogna fare gli esami del sangue senza aspettare». Ho bisogno di vedere gli esami per capire che tipo di infezione c'è, se virale come penso o batterica. Mi faccio accompagnare il giorno dopo da un mio amico, Alessandro. Ci siamo conosciuti all'università. Lui si è laureato in storia dell'arte e sta iniziando a lavorare nelle case d'aste. Ha una fissa per i cassoni rinascimentali, quelli per la dote nuziale. È di Bergamo, vive lì col suo ragazzo. Viene apposta per accompagnarmi in ospedale. Si ferma a dormire da me la sera prima e al mattino presto andiamo al policlinico in centro, via Sforza, proprio dietro alla statale, l'università a cui sono iscritto. Usciamo verso le 7. Non è molta strada, ma io faccio fatica a camminare. Mi pesa ogni passo del tragitto da casa mia in Porta Venezia all'ospedale. Non dico niente, prima o poi finirà. Sicuro, ma come? Ci fermiamo in un bar. Ho addosso il mio solito cappotto marrone imbottito, me l'ha regalato Marius l'anno scorso perché non avevo nulla di abbastanza caldo per l'inverno. Da quando stiamo insieme ho smesso quasi del tutto di comprarmi vestiti, uso i suoi. Mi piacciono e poi lui fa lo stylist, da quando sto con lui mi vesto meglio. Non ho più quell'aspetto un po' topo da biblioteca, un po' amico di Heidi. Tutto è di entrambi, non ho più un mio armadio, ci siamo fusi anche attraverso i vestiti. Nel bar aspetto che Alessandro finisca, mangia una brioche, beve un cappuccino di soia, Io devo rimanere a stomaco vuoto per i prelievi. Paga e usciamo. Passi, autobus, poche parole. Ecco, siamo arrivati. In ospedale, davanti alle casse per pagare il ticket, la confusione mi accende, riprendo vita. Per distrarmi dalla noia mi faccio un selfie e lo posto su Instagram. In mezzo ai monitor della sala d'attesa sembro un inviato del telegiornale. Ascolto i discorsi della gente che mi sta intorno. Mi perdo tra i pezzi di frasi e le ripetizioni delle cassiere. Ha la tessera sanitaria? Scusi, ha raccolto le urine? Signora, che mese di gravidanza è? Sono 27,80 €. Un quarto d'ora, mezz'ora, finalmente arriva il mio turno. Mi infilo da solo nel corridoio sul quale si affacciano le stanze e gli ambulatori. Mi capita un infermiere, maschio, sbrigativo, radio accesa. Mentre mi sto sedendo parla con le colleghe. Ridono, scherzano, che io stia bene o male, a questi non gliene frega niente. Il mondo va avanti, anche se io sono in pericolo. Non fare la vittima. Ma è vero. Per ogni malato la sua condizione è un evento assoluto, l'enigma che dovrebbe fermare il corso del tempo, la vita degli altri. La malattia recinta, scinde, confina chi ne è portatore in una sfera a parte, egoista, impaurita, lo riporta nell'io me primordiale che non vede altro che se stesso. Velocemente, senza rivolgermi la parola, l'infermiere mi lega il laccio emostatico. Distolgo lo sguardo per non collegare la sensazione del lago che buca la pelle ed entra nel braccio all'immagine della mia carne trafitta e del sangue che viene portato via dal mio corpo. Non ho paura, solo non voglio associare le due cose. Non voglio guardare mentre succede. L'infermiere, sempre senza dire niente, sfila l'ago dal braccio. Accettalo, non hai diritto a nient'altro che a questa ripetizione meccanica. Il modo in cui si fanno le cose, il protocollo. Abbiamo finito, arrivederci, a chi tocca? Non mi ha medicato bene. Mentre torno da Alessandro, è rimasto seduto davanti alle casse, da sotto il batuffolo fissato con lo scotch di carta parte una goccia di sangue che mi attraversa l'interno dell'avambraccio e si allunga giù fino al polso. La fotografo. È bella. Una linea rosso scuro che man mano si schiarisce, perde densità e lascia intravedere il colore della pelle. Celebro con questa foto la fine della mattinata. Ora bisogna solo aspettare. Mi pulisco, prendo qualcosa alle macchinette, un tè caldo pieno di zucchero. Una merendina qualsiasi, non ho nessuno slancio verso la scelta. Le mie manie salutistiche non valgono più, hanno fallito. Torno a casa e mi metto a letto. Dormo un paio d'ore. Mi sveglio, misuro la febbre. Niente di nuovo. Il mercurio conferma. Sta succedendo davvero.